Anna Kulishov, medica come Maria Montessori, profuga russa ed esule con figlia piccola come Sabina Spielrein, perseguitata e incarcerata per le sue idee politiche come Ipazia e Rosa Luxemburg, Anna Kulishov sembra riassumere in sé tutte le più grandi madri dell'umanità. Questa donna, nata in Crimea, all'epoca governatorato russo, alla metà dell'Ottocento da un'agiata famiglia di mercanti ebrei e divenuta icona del socialismo italiano al femminile, è ricordata come la dottora dei poveri, in milanese la dottura. La definizione le piaceva molto perché declinava al femminile un termine abitualmente maschile e perché sottolineava la sua estrema umanità e disponibilità al servizio. Si laureò in medicina in Svizzera con una tesi sulle febbri puerperali che lei scoprì essere causate dai batteri sulle mani non lavate di ostetriche e levatrici. Questo la mette in relazione con un'altra grande antenata votata alla salute e al benessere delle donne, Trotula de Ruggero, medica della scuola salernitana che nell'anno 1000 inventò la ginecologia e insegnò alle donne l'importanza dell'igiene intima. Anna Kulishov è stata la prima donna ad entrare al Politecnico di Zurigo nella seconda metà dell'Ottocento. 20 anni dopo vi arriverà dalla Polonia, nascosta in un carro di fieno, una diciottenne Rosa Luxemburg. Come Rosa, Anna trasformerà il suo appartamento nella redazione di una rivista socialista e si manterrà soprattutto scrivendo, poiché il mestiere medico lo esercitava per la povera gente che non poteva pagare. E come Rosa andrà in prigione con l'accusa di cospirazione. Giunta in Italia, terra di tradizione terribilmente patriarcale, venne inizialmente notata solo per la sua avvenenza. Ma poi l'Italia si rese conto del valore di questa scienziata, filosofa, attivista per i diritti umani e delle donne e grande essere umano dal fortissimo senso di lealtà e coerenza con i suoi ideali. Contemporanea della nostra Sibilla Aleramo, che a Roma lottava per i diritti delle donne con i suoi scritti e la sua vita libera, Anna da Milano agiva partecipando alla fondazione del Partito Socialista, come Rosa Luxemburg e come lei poco riconosciuta e praticamente dimenticata una volta lasciato il corpo. Ai tempi di Anna le donne si stavano ancora battendo per il diritto di votare, di avere giurisdizione sui figli, di possedere la propria dote, di poter ereditare o avere una pensione. Cose che noi oggi diamo per scontate, ma per le quali tantissime donne in tutto il mondo hanno combattuto, sono state perseguitate e a volte uccise. Alla famosa conferenza del 1890 dal titolo Il monopolio dell'uomo, oggi divenuta un libro edito dalla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, Anna esordì dicendo: "Come mai isolare la questione della donna da tanti altri problemi sociali che hanno tutti origine dall'ingiustizia, che hanno tutti per base il privilegio di un sesso o di una classe?" Ed ebbe il coraggio di puntare il dito non solo sugli uomini, ma anche sulle donne del patriarcato, le pupattole frivole e le aristocratiche vuote e ignoranti che con il loro comportamento alimentavano da secoli la querelle des femmes contro cui si era scagliata Christine de Pizan 5 secoli prima nel suo La città delle dame. La querelle des femmes era il tentativo di filosofi e scrittori di dimostrare scientificamente l'inferiorità biologica delle donne. Anna denunciava anche la mancanza di solidarietà tra le donne, il loro essere divise. È la stessa tradizione cristiana, sostiene Anna, che in base agli insegnamenti dei padri fondatori della Chiesa, che identificavano la donna come la porta del demonio, l'ha costretta ad accettare quella condizione di arrendevole mitezza fino al punto che le stesse donne la santificano e la perseguono come cosa buona. Per le donne, scrive, sono rimaste leggi ed istituzioni che hanno origine dalla forza bruta, consacrate e sanzionate dalla Chiesa e diventate poi anche base dei codici civili vigenti. Si potrebbe dire che il primo animale domestico dell'uomo è stato la donna, scrive sempre Anna Kulishov, perché in condizioni dispari di lotta ella rimaneva la vinta, ma vinta soltanto dalla forza brutale. Come tutte le grandi donne della storia, come Maria Montessori e Rosa Luxemburg, Anche Anna perviene alla politica sociale, all'economia e alla pedagogia come discipline intrecciate per il benessere umano, attribuendo alla proprietà privata e allo sfruttamento di una parte dell'umanità, specialmente la parte femminile, la causa prima dell'infelicità e della miseria nel mondo. Le donne per forza approdano a questa verità, quale che sia la loro disciplina di partenza, poiché la memoria dei clan matrifocali neolitici guidati dalle donne, che garantivano benessere e pace a tutta la comunità, è sempre molto forte in loro e necessariamente si risveglia ad un certo punto della loro vita e della loro opera terrena. Kuliscioff in Russia era il nome che si dava agli schiavi o alla gente senza famiglia. Apposta lei lo scelse per meglio identificarsi col popolo per il quale lavorò tutta la vita e anche perché, beh, dovette scappare dalla Russia, dove il regime zarista cominciava a perseguitare chi aveva idee di uguaglianza. Insisté per mantenersi col suo lavoro, rifiutò di sposarsi e di essere considerata la donna di qualcuno anche quando divenne madre. Nonostante la grande libertà con cui visse, però, ad Anna nessuno osa riferirsi come a una scandalosa, come invece oggi alcune discutibili manifestazioni mediatiche usano fare in riferimento a tutte le donne che hanno cercato l'emancipazione e l'indipendenza. Anna Kuliscioff era e resta un esempio di abnegazione, di impegno sociale, civile e umano, di coerenza, di lucidità e di tutte le più alte e nobili qualità delle donne. Ebbe una figlia, Andreina, che amò moltissimo e che si sforzò di comprendere quando la ragazza scelse un matrimonio borghese e decise di fare solo la moglie e la madre. Anna lasciò il corpo nel suo appartamento milanese, senza un sussulto, dopo aver salutato tutte le persone care lì presenti. Aveva 68 anni e da diverso tempo soffriva tra l'altro di artrite contratta in carcere. Il diritto di voto fu concesso alle donne più di 20 anni dopo. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura delle sue lettere, edite da Lorma Editore, tradotte da Elena Vozzi e lette da Giorgia. Da Devana, buon ascolto.